Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Radio 24 Personal Best, il corso di corsa alla radio, al mio fianco Ivana Di Martino. Ciao, buongiorno. Ivana, oggi puntata particolare, parliamo di motivazione e resilienza e lo facciamo con il nostro ospite di oggi, lo psicologo dello sport Pietro Trabucchi, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Dovrei poi aggiungere ultramaratoneta, di quelli che fanno più volte il Tour de Jeanne, hai scalato l'Everest, sei docente all'Università di Verona e autore di molti libri da cui noi traiamo spunto. Ciao Pietro, allora dunque sono veramente molto emozionata, ho letto tutti i tuoi libri, sono una tua grandissima fan e quindi perdonatemi veramente se mi mancherà e tremerà la voce. Quindi secondo me la prima domanda d'obbligo è di definire il termine resilienza. Tu hai parlato tanto nei tuoi libri appunto di questo argomento. Sì, allora il termine resilienza è un termine oggi molto molto di attualità, non lo era fino diciamo al 2007-2008 quando era un periodo di vacche grasse per cui ci eravamo tutti seduti abituati a contare sulle risorse esterne. Oggi invece abbiamo capito che se vogliamo andare avanti dobbiamo sfruttare quello che abbiamo dentro. Allora, è un termine che ha un'origine metallurgica della scienza dei materiali, indica la capacità di una lega o di un metallo di resistere a una pressione, ma chiaramente in psicologia viene usata a livello di metafora, cioè ognuno di noi non reagisce agli eventi esterni nello stesso modo, ma dipende molto da quali sono le risorse che ha a disposizione per filtrare questi eventi, queste difficoltà, questi problemi. Ci si può allenare a diventare resilienti e come? Sì, è qualcosa che tutti abbiamo, è un dono che tutti abbiamo alla nascita, su cui possiamo lavorare. Cioè il termine allenamento è proprio un termine appropriato, nel senso che più impariamo a gestire delle situazioni di stress, delle situazioni difficili, a porci obiettivi sfidanti, e più diventiamo bravi a farlo, e più esercitiamo la resilienza. Quindi, come dire, non c'è l'alibi, e sono nato così, perché chiunque può diventare più resiliente di quello che è oggi. E quindi questo può valere anche per, insomma, i nostri ascoltatori che si approcciano alla corsa, comunque che corrono durante una maratona, e durante il loro allenamento si diciamo allenano anche a diventare più resilienti. Assolutamente, credo che una parte del fascino che ha il fatto di mettersi a correre o a dedicarsi a delle attività che in fondo sono sportive ma sono anche di crescita personale, è proprio questa, che tu aumenti il livello di risorse interne che hai per filtrare le problematiche che la vita ti presenta, no? Per cui proprio il fatto che perseveri, che ti poni degli obiettivi, che sei disposto a uscire dall'area di comfort, che impari a gestire magari delle evenienze che non sono sempre gradite, come il dolore, le infiammazioni, la fatica, e queste cose ti rendono più solido, ti rendono più forte e resiliente. E la resilienza va di pari passo alla motivazione? Guarda, io definisco la resilienza una dimensione motivazionale, cioè in sostanza la resilienza è la capacità di far dare la motivazione, perché le persone, una delle cose che fanno quando incontrano degli eventi negativi è proprio quella di demotivarsi, di perdere motivazione, no? Quindi la differenza, diciamo, empirica tra una persona molto resiliente e una che è meno è proprio il fatto che di fronte a un qualsiasi contrattempo quella meno resiliente si demotiva, quella che invece è resiliente, come dire, va avanti, non abbandona l'obiettivo che si era prefisso. Anzi, trova un'opportunità per trovare qualcosa da fare, no? Magari, non so, una persona quando corre si infortuna e, non so, decide di andare in bicicletta piuttosto che a fare qualcosa d'altro, nuotare, o comunque trovare un'opportunità, anzi, dall'ostacolo che capita. Sì, assolutamente. Sono d'accordo con questo che dice Ivana, cioè non bisogna pensare alla resilienza come la testardaggine, no? Ho l'infiammazione e per forza allora devo andare avanti a correre, così sono resiliente. Resilienza è la capacità anche soprattutto di rialzarsi, no? Quindi di essere flessibili, di rimparare. Quindi se io magari mi dicono guarda che se tu continui a correre non correrai più perché il ginocchio poi va operato, la resilienza non sta allora in ogni caso vado a fare una maratona o 100 chilometri, ma magari trovo un'altra strada per continuare a fare quello che voglio e diciamo, per continuare a seguire i miei obiettivi. Invece il confronto con gli altri può aiutare la nostra motivazione? Sì, il confronto con gli altri secondo me è importante perché noi viviamo in un ambiente dove il confronto viene evitato, come dire, il rischio è un po' che ce la suoniamo e ce la cantiamo da soli. Poi secondo me per mantenere una motivazione sana a lungo nello sport non bisogna neanche diventare comunque troppo focalizzati in maniera globale, globalizzante, totalizzante sul confronto con gli altri. Cioè a un certo punto dobbiamo sempre, almeno io questo me lo ricordo, cerco di ricordarlo a me stesso tante volte, quasi tutti i giorni, che il vero avversario, quello che ti accompagna sempre fino alla fine, è te stesso, è con lui che devi lottare, no? Poi gli altri sono compagni di viaggio e sono degli stimoli, cioè va benissimo, come dire, cercare di battere il vicino di casa o il collega, ma non deve diventare, come dire, lo scopo per cui fare cose, perché sennò diventa una motivazione che non, secondo me non ha più a che fare con la passione, con quella che gli psicologi chiamano una motivazione intrinseca, cioè il piacere di sentirsi capaci, diventa un'altra cosa. E come dobbiamo impostare i nostri obiettivi, secondo te? La regola aurea, secondo me, è un po' quella: porsi sempre degli obiettivi che siano sfidanti, cioè nel senso che un obiettivo sia sfidante vuol dire che ti costringe a metterti veramente in gioco, uscire un po' dalla tua area di comfort, però devono essere obiettivi realistici, quindi raggiungibili, no? Se io mi do o degli obiettivi estremamente facili oppure impossibili da raggiungere, metteitari, chiaro che la mia motivazione dura poco. Invece siamo in una fase finale dell'estate e molti magari sono presi un attimo di pausa in queste vacanze, insomma, dalle loro corse, insomma, dal loro sport, e devono ritrovare la motivazione per riprendere a correre o per riprendere, insomma, la loro attività fisica. Dove possiamo trovare la motivazione o comunque la forza per riprendere a fare il nostro sport? Secondo me l'attività fisica deve essere sempre comunque di base un piacere, cioè io lo faccio perché mi diverto. Poi è chiaro che ci sono allenamenti o tipologie o giornate dove insieme al divertimento c'è anche molta fatica, c'è una parte di sfida e tutto, però è importante partire da questo, cioè se io lo vedo come il compito classico che devo fare a tutti i costi diventa dura, quindi magari le persone adesso sono state un po' ferme all'inizio, dire questo divertimento se lo sono un po' dimenticato, è utile non ricominciare subito ponendosi degli obiettivi tecnici, degli allenamenti di qualità, ma magari proprio anche fare qualche uscita per, tanto adesso appunto le giornate ancora, anche verso la fine dell'estate, no? Saranno piacevoli, ci sarà luce a lungo, quindi per fare delle cose che piacciono per se stessi, per sentirsi bene, per sentirsi capaci. Tornando un po' agli ostacoli, no, che possono capitare, alcuni appunto mollano e altri resistono e vanno avanti, alcuni si fanno magari sovrastare, altri riescono a reagire, ma come mai questa differenza? Da dove nasce? Beh, secondo quello che credo io, nasca molto dalle esperienze di vita e dallo stile di vita, cioè proprio perché credo che questa capacità sia frutto di allenamento. In qualche modo tu devi poter contare su tanto allenamento, no? E quindi questo allenamento te l'ha dato la vita, un po' come era una volta, no? Cioè non c'era bisogno magari di fare sport perché lo stile di vita già ti rendeva praticamente solido. Oppure il fatto che tu hai curato quelle che i psicologi chiamano le capacità autoregolative, cioè la capacità di impegnarsi a fondo, di non procrastinare, se io mi do degli obiettivi continuo a perseguirli, riesco a darmeli anche in maniera, come dicevamo prima, sensata e realistica, e sono capace di autodisciplinarmi. Ecco, questo è un qualcosa che secondo me non è che c'è qualcuno al mondo che è arrivato, che non ha più da imparare. Tutti abbiamo da imparare giorno per giorno, ed è una disciplina che costruiamo pezzo per pezzo. Questo ti permette piano piano di diventare sempre più bravo nel porti degli obiettivi difficili, o anche quando succedono delle cose non gradite, degli eventi inaspettati negativi, sì, di reggere fino in fondo. Quindi sto preparato, diciamo, cioè io non credo alla resilienza alla carta, quella che c'è al momento, no? Che si improvvisa sempre, come quelle capacità atletiche, nessuno improvvisa le Olimpiadi, cioè magari fa la gara della sua vita, ma alle spalle ha un lungo una lunga preparazione. E per chiudere, Pietro, un nostro ascoltatore, Fabio di Treviso, qualche settimana fa ci ha scritto: come faccio durante la maratona a vincere quella vocina che inizia a sentire intorno al 35esimo chilometro? Un po' tutti l'abbiamo sentita, che ci dice di camminare invece di correre. Innanzitutto forse la consapevolezza che quella vocina ci accompagna sempre, perché la fatica non è, come dire, una sfiga che capita solo a qualcuno, ma è un segnale biologico molto utile, no? Che ti dice che non stai correndo per la sopravvivenza, perché hai il leone dietro, guarda che stai sprecando la tua riserva energetica. Quindi si può abituarsi come dire, a lasciarla andare, cioè a capire quello che è, no? È una vocina che la sentono anche campioni del mondo di maratona, la sentono le persone che sono, che vincono gli ultra trail, cioè quella che accompagnerà sempre. Quindi impara a conviverci. Cioè, bisogna abituarsi a non ascoltarla. Sì, perché nel momento in cui tu, come tutti i pensieri, come dire, molesti, ti imponi di scacciarla, la rendi più forte, no? Come quando dici non voglio pensare a quella cosa prende sopravvento. Quindi, come insegna la meditazione, devi un po' lasciarla passare, cioè, ok, va bene, ci sei anche oggi, guarda, va bene, faremo un pezzo di strada assieme, però tanto io non mi fermo, anche se lo dici. Sì. Grazie a Pietro Trabucchi. Grazie, grazie di cuore. Buona giornata e buoni allenamenti. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.